gioia, facile degna mano, concedi un tanto d'or anche al mio labbro. Eccellenza principessa, io pure stringo fra queste braccia il seno. E come a noi, salva di risi il cielo, amica sorte, splenda la gioia e del mio amor la stella.